swisher così grasso. C'è nebbia nel posto, bambini magri adesso grassi. Moltiplico il pollo, gallina dalle uova d'oro. Scappa dal pollaio, crack musica, chiedi a mio fratello. Il crimine paga, suola rossa delle scarpe. È di Pitone o D'Agnello, spendo e poi li ripendo. Le rieri dentro la cuccia, BGG, triplo 7, strada come gli alfieri. Scacco matto, soldi e libertà per i miei fratelli. Sai che vengo dal mangiare solo pizza al taglio. La tua tipa vorrebbe mangiarmi per pranzo. Sto arrivando uno swisher con dentro 3 grammi. Ho 3 volte 7 vite come fossi 3 gatti. Non me ne fotte 3 cazzi di quello che penso. Arrivo al posto, salto fuori, puzzo d'erba a 3 metri. Sto sul cazzo alle guardie, non mi lasciano perdere. Se non parli di soldi allora lasciami perdere. Sai che mi piace farli e che mi piace spenderli. Sai che non metto Versace ma metto Gucci e Fendi. GPG 777 è la gang baby. Il mio contatto è tranquillo, una carestia non succede.